notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La legge di stabilità, la prova dell'Europa e del Quirinale, rinvio del pagamento della pensione al 10 del mese non riguarderà tutti i pensionati, ma solo 800.000. Dopo i problemi con la TASI tocca all'IMU. Ieri la scadenza per le delibere dei comuni è l'85%, ha cambiato regole rispetto all'anno scorso. Investe un'auto, muoiono a Roma un uomo e il figlio di 7 anni, erano in scooter, tornavano dallo stadio dopo la partita. Solo una cassa di rifornimenti americani su 28 sarebbe finita ad ISIS, il Pentagono indaga mentre circolano voci di uso di armi chimiche da parte degli jihadisti. Nuovo scandalo a Genova, premi anche i dirigenti sotto processo per omicidio, disastro e falso in relazione all'alluvione del 2011. Al Museo del Satiro Danzante di Mazara del Vallo ci sono 25 addetti, ma nel fine settimana e nei festivi è chiuso. Il sindaco attacca la regione, date la gestione a noi. La Roma si lecca le ferite dopo il 7-1 dal Bayern Monaco, la squadra tedesca ricevuta dal Papa che gli dice partita meravigliosa. Stasera in campo la Juve con l'Olympiakos. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti che se volete potete commentare al 349-238-6666 via sms o a effettogiorno@radio24.it. In apertura dunque la legge di stabilità, dovrebbe arrivare in giornata la cosiddetta bollinatura da parte della Ragioneria Generale dello Stato e dovrebbe arrivare anche la lettera di Bruxelles. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così, giornata di attesa dunque per Palazzo Chigi, da una parte della cosiddetta bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato sulla legge di stabilità, dall'altra della lettera con cui la Commissione Europea chiederà chiarimenti proprio sulla manovra per il prossimo anno. Lo snodo di entrambi i passaggi sarebbero le coperture di appoggio al provvedimento, dubbi noti quelli di Bruxelles, le stesse perplessità secondo alcuni le avrebbe però anche la Ragioneria dello Stato, per questo non sarebbe arrivato ancora il suo via libera, è tutto in regola, commentano però dall'esecutivo. La bollinatura arriverà oggi. Altro giudizio che pesa sul lavoro del governo Renzi è poi quello del capo dello Stato. L'ufficio legislativo del Quirinale è al lavoro per valutare la coerenza delle norme e i complessi passaggi tecnici. Il faccia a faccia napolitano Renzi di questa mattina va ad aggiungersi al lungo incontro di ieri e sarebbe finalizzato proprio ad avere ulteriori chiarimenti sulla manovra anche in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. L'obiettivo di entrambi, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe quello di dimostrare all'Unione europea che l'Italia fa sul serio e che pur avendo rallentato i tempi la strada italiana è coerente con le regole e i trattati europei. È tutto, linea allo studio. E grazie a Vincenzo Miglietta. Intanto il Presidente del Consiglio Renzi, come avete sentito, è intervenuto in Parlamento anche sulle questioni europee, mentre contemporaneamente è intervenuto anche Jean-Claude Juncker al Parlamento europeo. Se Juncker ha annunciato che entro Natale sarà pronto il piano di investimenti da 300 miliardi di euro, da Roma Renzi dice che l'Europa finalmente volta pagina. È stata una grande vittoria, ha detto, aver imposto un piano, non solo per il rigore e l'austerità, ma anche per gli investimenti. E questo piano sta nella presidenza Juncker, ha sottolineato, non in quella Barroso. L'Europa sta cambiando. Vorrei che le nuove istituzioni europee vedessero, indipendentemente dai nomi che rappresentano l'Italia, un pochino di più di coraggio e di orgoglio della nostra appartenenza a questa comunità. La nuova commissione sarà quella dell'ultima opportunità per l'Unione, o riusciamo a riavvicinare i cittadini o sarà un fiasco totale, ha detto Juncker, il quale ha sottolineato come i paletti finanziari non siano gli unici da preservare nel vecchio continente. L'Unione Europea deve avere anche una tripla A, quella sociale, altrettanto importante di quella economica. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Parlamento europeo ha dato da poco il via libera alla nuova Commissione, ci torneremo tra poco alle 14 nel nostro appuntamento con l'informazione europea in Europa 24. Sul fronte dei contenuti della manovra arrivano chiarimenti per quanto riguarda la questione del rinvio del pagamento delle pensioni al 10. L'anticipazione di ieri aveva fatto infuriare sindacati e associazioni dei consumatori. Lo slittamento del pagamento della pensione dal 1 al 10 del mese, previsto nel DDL di stabilità, era stato bollato come un vero e proprio accanimento nei confronti degli anziani. Oggi il cambio di rotta, o diverso. Secondo fonti sindacali, la norma sarà modificata. Solo chi ha il doppio assegno, da INPS e INPDAP, circa 800.000 persone, la riceverà il 10 del mese. Per gli altri, le cose resteranno come sono. L'INPS ha precisato precisato che è proprio questo l'impianto della misura. La norma sul rinvio scatterebbe il 1 gennaio 2015, vale circa 6 milioni di risparmio l'anno e prevede l'unificazione dei pagamenti per coloro che hanno pensioni sia INPS, pagate ora il primo del mese, che INPDAP, pagate il 16 del mese. Ma ai sindacati la cosa continua a non piacere. In generale non piace la poca attenzione riservata alla categoria dei pensionati. Nella manovra, spiegano, non ci sono misure per loro. Il 5 novembre sarà una giornata di mobilitazione con iniziative a Roma, Milano e Palermo per chiedere al governo politiche di sostegno agli anziani. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Stiamo parlando della legge di stabilità e quindi di norme che arriveranno e che non sono ancora in realtà disponibili, non sono ancora nemmeno nelle mani del Parlamento dal quale dovranno passare. Nel frattempo ci sono le norme che già esistono, a partire da quelle che riguardano l'IMU, che come sapete in realtà non è scomparsa soprattutto per le seconde case e le case di lusso. Che cosa succede? Che è arrivata ieri una scadenza importante, la scadenza delle delibere dei comuni, e così come per la Tasi, un po' di confusione c'è. Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Buongiorno. Un po' di confusione c'è perché mentre tutti erano impegnati a parlare, a scontrarsi per la Tasi, i comuni cambiavano anche le regole dell'IMU in modo molto frequente. Circa l'85% dei comuni hanno cambiato poco o tanto aliquote, parametri, articolazioni dell'IMU rispetto all'anno scorso. Questa cosa finora non è emersa perché l'acconto di giugno viene pagato con le regole del 2013, emerge ora perché, appunto, come dicevi tu, entro ieri i comuni dovevano inviare le delibere, il Ministero ha tempo entro il 28 per pubblicarle, dopodiché bisognerà per i contribuenti, per i professionisti, per le case di software che fanno i software gestionali nel tentativo di gestire questa cosa, cambiare tutto, rispulciare 8.000 delibere, 7.000 in realtà, perché un migliaio di comuni sembra non aver cambiato niente, quindi non ha inviato nuove delibere, e quando non è cambiato niente a saldo a dicembre si pagherà esattamente quello che si è pagato ad acconto. Non riguarda la prima casa, ma riguarda comunque circa 16 milioni di persone, tra persone fisiche, imprese, eccetera, che sono proprietarie di seconde case, negozi, uffici, capannoni o delle famose fantasmatiche abitazioni principali di lusso, che però sono pochissime, sono circa 73.000 in tutta Italia. Allora, grazie a Gianni Trovati. Tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore di oggi, che dedica l'apertura con qualche dettaglio anche su singole delibere, ma naturalmente andate a informarvi sui siti dei comuni e col vostro comune, oltre che sul Sole 24 Ore. Ancora una notizia dal mondo dell'economia che arriva da un contratto collettivo nazionale di lavoro che è stato rinnovato per 1.200.000 operai agricoli e florovivaisti. Era scaduto il 31 dicembre del 2013, l'aumento salariale del 3,9%, pari a 50,7 euro medi al mese, ripartito in due tranche. Siamo alla cronaca con la morte di un uomo e suo figlio a Roma. Potrebbe essere stata l'alta velocità la causa dell'incidente avvenuto ieri notte alle porte di Roma, in cui hanno perso la vita il 38enne Stefano De Amicis e suo figlio Christian. Entrambi sono stati travolti da un'auto mentre tornavano a casa in scooter dopo aver visto allo stadio olimpico la partita Roma-Bayern Monaco. Il conducente dell'auto, un rumeno di 40 anni, è indagato per omicidio colposo ed è stato sottoposto ad alcol test. I risultati sembrano però negativi. Stefano De Amicis e il figlio Christian, che il 1 novembre avrebbe compiuto 8 anni, erano grandi appassionati della Roma ed erano andati a vedere la partita di Champions League dove il padre del bambino aveva fatto lo steward. Poco prima di mezzanotte, mentre tornavano a casa sulla Nomentana vicino a Fonte Nuova, sono stati travolti dall'auto del rumeno che proveniva dalla direzione opposta, uscendo da una curva dove già in passato si sono verificati altri incidenti. Il bambino è morto sul colpo, il padre poco dopo all'ospedale per le gravi ferite riportate. Nell'incidente è rimasto ferito anche il conducente della macchina e due connazionali rumeni che viaggiavano con lui. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 22 persone, tra cui 13 bambini e 3 donne, sono state uccise in un bombardamento dell'aviazione di Damasco e siamo dunque all'estero. La notte scorsa sulla cittadina di Nasib, nella provincia meridionale siriana di Daraa, lo afferma, la fonte è un ONG, l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria. Intanto nella stessa Siria si continua a combattere per Kobane, dove iniziano a circolare testimonianze di un attacco chimico da parte di ISIS. We are very confident that the vast majority of the bundles did end up in the right hands. In fact, we're only aware of. Con queste parole il portavoce del Pentagono, John Kirby, risponde alle accuse sul fallimento della missione di rifornimento medico e militare destinata ai curdi siriani impegnati nella difesa di Kobane. Non ha parlato di dati certi, ma sarebbero 28 gli approvvigionamenti paracadutati e solo uno di questi avrebbe mancato il giusto punto di atterraggio. Secondo il portavoce, nessuno dal quartier generale si scuserà per come la missione è stata condotta. Comunque proseguono le verifiche tecniche sul video pubblicato dai jihadisti per accertarne l'attendibilità. Intanto dalla città che sta diventando il perno del braccio di ferro tra la coalizione internazionale e l'ISIS non arrivano buone notizie. Le testimonianze lasciate su Twitter parlano di armi chimiche utilizzate contro i curdi. Un medico ha twittato di non poter confermare l'uso di queste armi senza i test adeguati, ma ha chiesto che vengano paracadutati con urgenza medicine ed altro materiale medico. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un agente di polizia è morto e un ufficiale è rimasto ferito in un attacco contro la loro auto a Minia nell'Alto Egitto, a sud del Cairo. Uomini armati a bordo di un veicolo si sono avvicinati all'auto della polizia e hanno aperto il fuoco. Tornando all'Italia, beni per 900.000 euro sono stati sequestrati all'ex calciatore Fabio Cannavaro nell'ambito di indagini coordinate dal PM di Napoli Fabrizio Vanorio su un'ingente frode fiscale. Questa frode fiscale sarebbe stata realizzata con una società di noleggio di barche di lusso che l'ex calciatore gestiva insieme alla moglie. Il calcio giocato adesso è la Roma che si lecca le ferite il giorno dopo la disfatta all'Olimpico. L'ottava mazzata dopo le 7 ricevute all'Olimpico, la Roma l'ha presa proprio da Papa Francesco. Avete giocato una partita meravigliosa, infatti detto questa mattina il pontefice ricevendo in Vaticano giocatori e dirigenti del Bayern di Monaco che ieri sera hanno impietosamente bastonato Totti e compagni. È vero che i tedeschi hanno donato al Papa una maglia personalizzata col numero 1 e la scritta Francisco, però il complimento è uscito dal cuore del pontefice in virtù della travolgente prestazione offerta dai giocatori di Guardiola. 7-1, troppo scioccante per essere vero, bravissimi tedeschi, impresentabili giallorossi che dopo 9 minuti erano già sotto con Robben. Una cascata di gol cui la Roma ha risposto con la rete bandierina di Gervinio. Difficile capire dove iniziano i meriti del Bayern, vera orchestra di virtuosi, e dei meriti della Roma. Qualche colpa ce l'ha anche Garcia, che ha voluto giocare a viso aperto con un avversario al di fuori della sua portata. Sentiamo Garcia. Abbiamo lasciato giocare questa squadra e come lo sappiamo sono fortissimi, ma il primo che ha sbagliato questa sera sono io. Non è colpa dei giocatori, l'atteggiamento, la strategia per me dopo questo primo tempo era sbagliato. Troppa presunzione, insomma, i buoni risultati del campionato hanno illuso la Roma. Non si può attaccare il Bayern come se fosse il Chievo. Rimangono due magre consolazioni. La prima è che i difetti dell'una hanno perfino aumentato le qualità dell'altro. E poiché in Champions non tutto è perduto, perché il CSKA Mosca fa un grande favore ai giallorossi, fermando sul 2-2 il City. Insomma, la qualificazione non è ancora saltata. Provaci ancora, Garcia. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E stasera tocca la Juventus in campo contro l'Olympiacos. Dice Allegri che è come uno scontro diretto ad eliminazione. Giochiamo ora ad Atene, tra 15 giorni a Torino, bisogna fare più punti che si può, serve una partita giusta sotto tutti i punti di vista. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. La legge di stabilità, la prova dell'Europa e della ragioneria dello Stato che oggi dovrà mettere la bollinatura mentre si attende la lettera di Bruxelles. Per quanto riguarda il rinvio del pagamento della pensione al 10 del mese, non riguarderà tutti i pensionati ma solo 800.000. Li ha investiti un'auto, sono morti a Roma un uomo e il figlio di 7 anni, erano in scooter, tornavano dallo stadio dopo la partita. Solo una casa di rifornimenti americane su 28 sarebbe finita ad ISIS. Il Pentagono indaga mentre circolano voci di uso di armi chimiche da parte degli jihadisti. Nuovo scandalo a Genova, premi anche ai dirigenti sotto processo per omicidio, disastro e falso in relazione all'alluvione del 2011. E di questo torneremo a parlare tra poco. Intanto io saluto Nicola Cristaldi, che è sindaco di Mazara del Vallo. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi. L'abbiamo chiamata perché è una storia che ha fatto emergere lei. Avete questo museo, che è un museo importante perché raccoglie una statua recuperata in mare di epoca greca, classica, il satiro danzante, una sorta di simbolo, se vogliamo, delle vostre parti per certi aspetti. E questo museo ha 25 addetti ed è chiuso nel fine settimana, ce lo conferma? Vi confermo che ci sono 25 addetti che non riescono ad assicurare l'apertura del museo tutti i giorni festivi, qualche volta aprono soltanto qualche ora, qualche altra volta chiudono. E vi confermo. Ma è così, che mi scusi sindaco, qualche volta casualmente, cioè chiudono e aprono un po' come gli gira? Sì, praticamente non c'è un preciso calendario, tutto ad un tratto le risorse finanziarie della regione mi dicono non riescono a garantire il pagamento dello straordinario per il lavoro del giorno festivo, e allora la soluzione che trovano è quella di chiudere o quella di chiedere a noi come comune di Mazara del Vallo di fornire del personale integrativo per tenere aperto il museo, la cui gestione è affidata alla regione. E quindi gli straordinari per il festivo finisce che li pagate voi come comune? Beh, attraverso la fornitura di addetti che collaborano con il personale regionale, ma di fatto questo avviene soltanto qualche volta, e più delle volte la regione decide di tenere chiuso nei giorni festivi il museo. Mi dica una cosa, voi chiedete alla regione a questo punto, dite passateci il pacchetto, cioè passateci la gestione del museo, ci pensiamo noi? Noi abbiamo fatto come comune una rete museale che sta aperta tutti i giorni dell'anno, anche il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, attraverso l'utilizzazione di nostro personale che è stato formato, che è qualificato, che è nelle condizioni di fornire le notizie storiche dei luoghi museali, e personale che noi paghiamo molto meno di quanto viene pagato un custode della regione. Quanto prende un custode della regione, sindaco? Un custode della regione prende il doppio di un custode comunale. Quanto me lo quantifichi? Non meno di 2.500 euro al mese. 3.500 euro al mese netti? No, 2.500 netti. 2.500 netti, sì, questa è la cifra media di un custode regionale. Evidentemente noi non possiamo accettare che 25 persone stiano in uno spazio che è bellissimo, indubbiamente, però è non più di 200 metri quadri. E io credo che 25 persone in 200 metri quadri siano già una folla di soli addetti. Lei immagini cosa succede quando comincia il flusso dei visitatori. Questa è una cosa che noi contestiamo, perché pensiamo che invece bastano per gestire il satiro 4-5 persone. Grazie a Nicola Cristaldi, sindaco di Mazara del Vallo, storia che abbiamo voluto raccontare. Saluto Carla Cantone, segretario generale dello SPI-CGL, che è il sindacato dei pensionati italiani della CGL. Cantone, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. È tranquillizzata da questa nuova versione che è uscita per quanto riguarda la legge di stabilità, ossia il fatto che questo allineamento al 10 del pagamento delle pensioni sia effettivamente un allineamento, cioè riguarda solamente quelli che hanno anche una pensione INPDAP? Io a questo punto voglio vedere nero su bianco, perché questi qui dicono una cosa, ne fanno un'altra, poi dicono che non è vero, poi di notte la cambiano, poi la modificano, poi dicono che siamo noi che non abbiamo capito. Ora, se sono ritornati indietro, come mi pare sia così, noi non possiamo che essere contenti. Aggiungo però che anche per quegli 800.000 è ingiusto spostare il pagamento. Quindi hanno fatto una cosa che non dovevano fare, noi ci siamo ribellati, loro se ne sono accorti, hanno fatto marcia indietro, adesso sostengono che noi abbiamo capito male. Va bene, abbiamo capito male, però vorrei capire bene, definitivamente dico al governo, smettetela di attaccare i pensionati che stanno già male, non c'è bisogno che gli si faccia altra cattiveria. Cantone, perché in realtà nella bozza che immagino voi aveste e che non era una bozza, era a disposizione anche dei giornalisti. E appunto, siccome l'avete vista, l'hanno portata anche dal Presidente della Repubblica, era prevista che si allineavano al 10 tutte le pensioni, e tutte le pensioni sono 16 milioni. Hanno sbagliato, la dattilografa ha sbagliato a scrivere? Può darsi, hanno fatto marcia indietro, io sono contenta. Senta Cantone, sarete in massa, saranno in massa anche i suoi iscritti, immagino, la manifestazione di sabato, no? C'è la manifestazione della CGIL, però c'è anche una manifestazione importante, unitaria, il 5 di novembre, di tutti e tre le organizzazioni sindacali dei pensionati. Faremo tre manifestazioni, una a Roma, l'altra a Milano e una a Palermo, dove parleremo anche di queste cose. Anche di queste cose. Prima. Ultima domanda, anche se insomma. Prevedo la risposta. Come giudica l'aumento della tassazione sui fondi pensione? Sulle rendite da fondi pensione? Se la potevano risparmiare, persino il ministro Fornero ci dà ragione. Pensi un po'. Allora, ho risposto dicendole sì, così. Mi sembra di sì. Grazie a Carla Cantone, grazie a Carla Cantone. Segretario dello SPI CGIL, il sindacato dei pensionati, appunto, della Confederazione della CGIL. Dovremmo avere già in linea Lilli Lauro, che è capogruppo del Popolo della Libertà. Oddio, ho detto Popolo della Libertà, sono rimasto al vecchio, forse Forza Italia, al Comune di Genova. Buongiorno Lauro, benvenuta. Sono Forza Italia. Forza Italia, perfetto, è rimasta da quella parte là. Allora Laura, abbiamo chiamato perché lei ha presentato un'interrogazione in comune a proposito ancora una volta dei premi dati ai dirigenti del comune in qualche modo responsabili in questo caso, o almeno sotto processo perché considerati responsabili di alcune cose che riguardano l'alluvione di Genova del 2011. Ci spiega un po' meglio? Sì, abbiamo appurato che i dirigenti dell'alluvione appena passata si sono già presi i premi, quindi la mia interrogazione all'assessore competente era: li hanno presi anche quelli del 2011 e sembra purtroppo che l'abbiano presi anche dopo l'alluvione. E quindi insieme all'interrogazione io ho preparato anche una mozione, perché comunque questi premi vengono presi ma autorizzati dallo stesso dirigente, perché sono delle determine dirigenziali, quindi non è che è la giunta, è lo stesso dirigente che in assoluta contrario della trasparenza si autopremia. Cioè, mi spieghi meglio, perché per esempio tra le persone a processo con le accuse tra l'altro di disastro colposo, omicidio colposo, falso, c'è per esempio l'allora capo della Protezione Civile di Genova nel 2011, il dirigente, diciamo così, no? Perché poi a capo politico c'è sempre un assessore alla Protezione Civile e poi c'è un dirigente. Quindi questo stesso dirigente che è a processo si è autoattribuito il premio? Ecco, così sembra, purtroppo sono delle determine dirigenziali che non sono trasparenti, quindi la mia domanda è questa: così sembra che sia quelli di adesso che ad agosto si sono auto diciamo brillantemente premiati, anche quelli passati, perché comunque era un'aggiunta allo stipendio, una cosa automatica. È qui che veramente c'è qualcosa di incomprensibile, proprio non dico soltanto io come consigliere comunale, ma un semplice cittadino. Noi qua siamo sommersi dal fango, ci sono le attività commerciali che rischiano di non aprire più, e qui invece c'è uno scollamento con un comune che non fa niente e non solo non blocca questo scempio economico. Allora, ci interessava raccontarlo. Un'ultima cosa, di quantità di denaro, quanto sono, a quanto ammontano, posto che naturalmente conta il principio, fossero anche 50 euro forse era da evitare, ma in termini di quantità di denaro quanto sono? Per me sono sono tantissimi, perché almeno gli ultimi dirigenti ho visto che sono botte da 5.000, 7.000, 9.000 euro per loro. Quelli passati non lo abbiamo ancora capito, ed è questo quello che noi chiediamo alla Giunta, la trasparenza. Soprattutto la chiedo anche al rappresentante, al segretario generale del Comune, perché comunque sono dirigenti ma fanno capo al massimo dirigente, che comunque prende uno stipendio incredibile in un momento veramente di forte difficoltà di tutti. Quindi quello che chiedo è quanto hanno preso, per tutto, se è vero come sembra che abbiano preso tutti, quanto hanno preso, e se la prima cosa da fare è che non si possano più autofirmare, ma che tutto passi in aula e qualcuno dica se è un premio o no. Non è che sia una tecnica solo per prendersi più soldi nello stipendio, questo è inaudito. Grazie Lilli Lauro, capogruppo di Forza Italia al Comune di Genova. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo per la borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Notizia di poco fa: uno scontro a fuoco è avvenuto al confine tra l'Egitto e Israele, questo è quello che dice la radio militare israeliana, naturalmente, secondo la quale è stato aperto il fuoco contro una pattuglia israeliana all'altezza del monte Harif. La legge di stabilità è alla prova dell'Europa e del Quirinale. Nel frattempo si apprende che il rinvio del pagamento della pensione al 10 del mese riguarderà 800.000 pensionati. Dopo i problemi con la TASI, tocca all'IMU. Ieri la scadenza per le delibere dei comuni, l'85% ha cambiato regole rispetto all'anno scorso. Un grave incidente sul lavoro in provincia di Potenza, due operai sono caduti da un tetto, uno è morto, l'altro in gravissime condizioni all'ospedale San Carlo. La borsa. Borse in diretta. Giornata anche oggi positiva, anche se non ottima come ieri, più 0,28% il FTSE MIB, più 0,32% il FTSE All Share, Parigi che guadagna lo 0,15%, Francoforte lo 0,26%, Londra lo 0,11%. Isabella Tasso, Radio Corriere del Sole 24 ore, buongiorno. Buongiorno. Allora, come mai i mercati sono positivi anche oggi? Ma adesso sono positivi, in realtà hanno cambiato più volte la direzione di marcia, restano quindi molto volatili dopo il recupero di ieri, mentre gli investitori continuano a interrogarsi su eventuali mosse della Banca Centrale Europea a sostegno dell'economia e soprattutto sugli esiti degli stress test sulle banche. A Piazza Affari sono le azioni delle banche appunto a procedere in ordine sparso, mentre è scattato il conto alla rovescia per la pubblicazione dei risultati degli stress test, che è in calendario domenica. Secondo le indiscrezioni riportate da un'agenzia spagnola, 11 istituti europei potrebbero andare incontro a una bocciatura, di cui 3 italiani. La BCE ha però definito totalmente speculativa qualsiasi ipotesi prima di domenica. Il settore è per lo più in ribasso, ma Banca Monte dei Paschi invece continua a guadagnare terreno, fa quasi più 3% e recupera parte dei punti lasciati sul parterre la scorsa settimana. Ebbene, oggi anche Luxottica che guadagna l'1,91%, ST Microelectronics l'1,68%, Atlantia l'1,6%, così come Finmeccanica. Autogrill guadagna l'1,3%, in fondo al listino alcune banche come Banco Popolare che cede l'1,92%, ma anche CNH che perde il 2,16%, Iux l'1,71%. Grazie Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Francesco Baccini, cantautore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Cantautore e genovese, anche lei era in piazza ieri a contestare la giunta e la regione, come mai? Ma più che altro abbiamo posto delle domande, volevamo sapere alcune cose riguardo questi soldi stanziati e congelati mai spesi per... Beh, però mi scusi Baccini, insomma, sono volate anche uova e bottiglie, c'è un modo particolare di far domande, no? Ma guardi, io uova e bottiglie non ce le avevo, ora non posso rispondere di chiunque viene a una manifestazione. Certo, vabbè, ovvio. Chiaramente, anche perché è una manifestazione nata su Facebook spontaneamente, senza nessuna bandiera politica, senza nessun marchio appunto politico. Poi chiaramente se qualcuno ha tirato le uova non glielo certo passate io. Certo, naturalmente. Senta, quali sono le domande che fate? Soprattutto la questione legata alla bonifica di questo torrente, che è poi il vero problema della città, cioè quando ormai bastano 4 ore di pioggia e il torrente Bisagno praticamente diventa un imbuto e in poche ore si riempie, straborda e Genova diventa Venezia improvvisamente. Allora, siccome due anni fa, dopo l'alluvione del 2011, erano stati stanziati credo 37 milioni di euro per iniziare questi lavori, che tra l'altro non sono lavori che fai in due minuti, no? Questi soldi a un certo punto sono stati congelati perché la ditta che aveva vinto la gara d'appalto stava iniziando i lavori, è stata l'altra ditta che non ha vinto, ha fatto ricorso al TAR, sì. Bloccato tutto quanto e il problema è che però rimane, quindi io ogni volta, io non abito più a Genova, ci abito la mia famiglia, ogni volta che piove mezza giornata sono terrorizzati naturalmente. Sai, qui non è che si costruisce, non è l'appalto per costruire un quartiere residenziale o una piscina, qui è un problema più serio, qui c'è di mezzo la vita delle persone. Bacini, ho letto che state pensando insieme a De André, a Cristiano De André, di organizzare un concerto per, sì, immagino anche per raccogliere fondi per l'alluvione. Soprattutto per quello, anche perché quest'anno sono stati più o meno quantificati 300 milioni di danni, anche perché questi, ok, è morta una persona. Ha voglia a suonare. Ha voglia a suonare, certo, chiaramente ognuno dà quello che può, chiaro. Il problema è che queste persone che hanno attività, negozi, insomma, nella zona lungo il torrente, insomma, la zona antistante lo stadio, la zona di la stazione Brignole, fino ad arrivare in via 20 settembre, perché ormai lì si forma come una conca e allaga tutto quanto. Chiaramente questi negozi, queste attività non sono coperte dall'assicurazione perché le assicurazioni si rifiutano di assicurarle. E quindi ogni volta che succede il disastro questi sono abbandonati a loro stessi. Ora si metta nei panni di chi ha un'attività e ogni volta che piove gli viene allagato il negozio e perde tutto, un disastro. Sì. Abbiamo intervistato anche parecchi commercianti genovesi negli ultimi giorni. Avete già una data, una qualche idea? No, state già convocando persone, sì, vostri colleghi? Pensiamo, assolutamente sì, pensiamo di riuscire a farlo per dicembre, anche perché una cosa del genere non è che la organizzi in poco tempo. E pensiamo che intorno a dicembre dovremmo riuscire a creare questo concerto, manifestazione per raccogliere fondi. C'è già qualcuno che ha aderito? Avete fatto qualche telefonata? Le abbiamo fatte, chiaramente lo diremo a tempo debito. Ok, allora in bocca al lupo per l'organizzazione di questo concerto e magari ci risentiremo quando saremo a ridosso. Grazie a Francesco Bacini, cantautore e genovese appunto, una buona giornata. E saluto Gian Andrea Gagliani, direttore di Analisi Difesa e collaboratore, commentatore del Sole 24 Ore. Gian Andrea, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a te e agli radioascoltatori. Allora, ti abbiamo chiamato per parlare di ISIS vorrei partire da queste indiscrezioni che stanno circolando soprattutto su Twitter, soprattutto lanciate dai curdi che combattono a Kobane, secondo le quali ISIS avrebbe iniziato ad utilizzare armi chimiche. È un'ipotesi che ti sembra credibile? Ma guarda, diciamo che di questi argomenti, di questo tema se ne parla spesso, già in luglio gli stessi curdi avevano denunciato attacchi chimici in alcuni settori del fronte contro lo Stato Islamico da parte dei miliziani dello Stato Islamico, e quello che si sa per certo è che in Siria, come in Iraq, armi chimiche ce ne sono, ce n'erano. Addirittura recentemente è emerso che alcuni depositi vecchi dell'esercito di Saddam Hussein contenenti proiettili caricati con sarin, aggressivi chimici o con gas mostarda, iprite, sono stati ritrovati e sono ancora più o meno efficienti. Quindi la possibilità che l'ISIS abbia raccolto anche nelle zone dell'Iraq che ha occupato nel nord e questi equipaggiamenti che una volta appartenevano all'esercito di Saddam Hussein è molto concreta ed è credibile. Che abbia un vantaggio a impiegarli bisogna vedere la situazione tattica. Io credo che impiegarli in una città come Kobane, che è sotto gli occhi dell'opinione pubblica mondiale ed è a due passi dalla frontiera turca, possa rappresentare certamente un pericolo, ma forse anche un autogol mediatico per una struttura come quella appunto dello Stato Islamico, che comunque cerca di avere un elevato consenso almeno in quella parte dell'opinione pubblica islamica che lo sostiene. E potrebbe creare ad ISIS anche ulteriori problemi con la Turchia, brevemente, Gian Andrea? Sì, probabilmente sì, perché